Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Flavio Suardi in redazione, Fabio Cantadori in regia. Prima di tornare sui fatti, sulle notizie che ci ha lasciato in eredità la domenica, che sono essenzialmente la splendida corsa di Laguna Seca ieri sera tardi e la vittoria soffertissima di Roger Federer a Wimbledon, fatti su cui naturalmente torneremo nella seconda parte del programma, vale la pena di concentrarci sulla cronaca di questa mattina. È chiaro che non sono più i tempi degli elicotteri e della cavalcata delle Valchirie, piuttosto al Milan, che si è radunato appunto questa mattina, quelli dei fumogeni. Vi leggo questa agenzia delle 12.43, contestazione al Milan nel giorno del raduno, mentre i giocatori rossoneri faranno il loro ingresso nel centro di Milanello, un folto gruppo di ultra protestano per la cessione di Kakà e la campagna acquisti al risparmio. Alcuni fumogeni sono stati lanciati fuori dal centro sportivo rossonero e sotto il controllo delle forze dell'ordine i tifosi sono stati fatti arrivare fino all'ingresso di Milanello, ma divisi da una transenna. Dunque, i tempi degli elicotteri sono lontani, appunto quelli dei fumogeni. 800240024 per le vostre considerazioni. La mia è che la benedizione pastorale di Silvio Berlusconi, che oggi dalle pagine della Gazzetta parla di un Milan forte come nessuno, di un Milan più forte dell'Inter, che raccomanda ai milanisti veri di avere pazienza e dice: i milanisti veri sono sicuro che ci crederanno ancora, che non contesteranno, d'altra parte sono abituati bene, non li deluderemo nemmeno quest'anno. Ebbene, la benedizione pastorale del numero uno rossonero non è stata sufficiente. Andrea Schianchi, inviato della Gazzetta dello Sport, ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Si diceva di contestazioni che tu hai assistito, no? Sì, esattamente. Non è, per il momento non si tratta di una contestazione grandissima, eccetera, però sicuramente è un segnale dei tempi che stanno cambiando. Segnale dei tempi che stanno cambiando e non in meglio per il Milan, almeno nella considerazione dei suoi tifosi. Oggi sulla Gazzetta dello Sport tu lanci i principali interrogativi, tanti interrogativi che sono intorno al Milan che sta nascendo. Mi pare che una delle grandi novità di quest'anno, e cioè Leonardo, sia la meno preoccupante in fondo, perché ritengo sia un uomo di grande intelligenza. In fondo si tratta di gestire questo gruppo più che di inventarsi qualcosa di calcisticamente diverso. Sì, penso anch'io. Io credo che sia giusto. Io ovviamente parlo per esperienza personale, anche esperienze dirette. Io credo che Leonardo possa tranquillamente fare quello che è stato fatto in passato. Il problema è che i giocatori non sono più quelli del passato, quindi non è più colpa di Leonardo, ma è colpa della società. In sostanza, traducendo, se voi date la regina a Alex Ferguson probabilmente ha qualche difficoltà; se all'attuale allenatore della regina Novellino gli date il Manchester United, può darsi che in semifinale di Champions ci arrivi anche lui. Sì, non c'è dubbio. Invece gli interrogativi preoccupanti di quelli che sollevi tu sono legati innanzitutto a due giocatori: Nesta, che nessuno sa bene in quali condizioni possa essere, e Ronaldinho, cui si vogliono affidare le chiavi della squadra. Sì, io allora, se per Nesta si può parlare di scommessa, nel senso che effettivamente è una scommessa medico-atletica, perché non si può sapere e nessuno lo può sapere, nemmeno lui, al di là delle dichiarazioni ufficiali che possono essere fatte, nessuno può sapere come a 33 anni possa reagire un fisico debilitato da gravi infortuni a una stagione di riposo totale, di non giocata come quella dell'anno scorso. Quindi, al di là di quello che possono dire i medici, i super medici, i super tecnici, io ho delle forti perplessità fino a che non vedrò Nesta giocare 10-15 partite consecutive e di notevole livello. Sì. A mio avviso il dubbio rimane. Per quanto riguarda Ronaldinho, più che una scommessa, addirittura qua credo si debba chiamare in causa il miracolo. Cioè, bisognerebbe far sì che Ronaldinho si mettesse in testa di essere un giocatore di calcio. E questo credo che sia il lavoro più difficile che Leonardo deve compiere. perché sulla classe di Ronaldinho nessuno può discutere, sulla tecnica di Ronaldinho nessuno credo possa discutere, però si può certamente discutere sul suo modo di allenarsi, cioè vero, sul suo modo di approcciare le partite e sul suo modo comunque di interpretare il calcio italiano. Sì. Non si può camminare nel calcio italiano. Sarà anche più bello quello spagnolo, come tutti dicono, io non credo. Però in Italia bisogna correre, se no te la prendono su anche i giocatori delle ultime squadre di classifica. Sì, ma anche in Spagna mi pare che Ronaldinho comunque avesse avuto i suoi bei problemi nelle ultime due stagioni di Barcellona. Tanto che nessun rimpianto ha sollevato dalle parti blaugrana. Bravo. Intanto è divertente anche l'immagine di Galliani che viaggia per l'Europa con nella valigia i 14 milioni presi sostanzialmente da Gourcuff, che sono la dote che Silvio Berlusconi gli ha dato, gli ha messo nel portafoglio per fare campagna acquisti. Esatto. Ma io credo che lì... al di là delle voci di siamo tutti d'accordo, la nostra è tutta una grande famiglia, è tutto concordato, eccetera, credo che non sia concordato un bel nulla. La realtà delle cose è che Kakà è stato venduto per ripianare il bilancio, che comunque, e sono dati del Sole 24 Ore di 10 giorni fa, mi pare abbia ancora qualche scoperto. E gli unici soldi al momento disponibili sono quelli derivati dalla cessione di Gourcuff, che sono, siccome si tratta di una transazione con l'estero, i soldi non passano attraverso la Lega, quindi sono subito disponibili. Sì. E sono quei 14 milioni che Galliani continua a offrire di qua e di là, nel caso specifico al Siviglia per lo stopper Luis Fabiano, come io lo chiamo, perché è uno stopper. Certo. E al Real Madrid per Huntelaar, credo che se il Wolfsburg dicesse... pronto? Sì, ti sento, ecco, Andrea, ti sto ascoltando. Proviamoci, non credo che si accontentino di 14 milioni per Dzeko. Però francamente converrebbe dire le cose come stanno, cioè diciamo chiaramente la famiglia Berlusconi non vuole più investire nel gioco del calcio, o perlomeno non vuole investire adesso. Sì. Può darsi che ci siano anche motivi economici, motivi finanziari, francamente non credo alla storia che siccome c'è la crisi mondiale bisogna ridurre, perché bisogna essere morigerati, certo. Bisogna evitare di buttare via i soldi, ma questo bisogna evitare di buttarli via sempre. Insomma, non mi risulta che il Presidente del Consiglio abbia ceduto rami d'azienda piuttosto che ville sparse per l'Italia. Quindi, insomma... No, ma sai cosa ti dico? Se bisogna evitare di buttare via i soldi, il calcio è la prima cosa da accantonare, no? Ecco, appunto. Quindi io dico semplicemente che va fatta una politica seria, e su questo sono d'accordo, ma soprattutto va spiegata. Certamente, certamente. Perché se uno non spiega, la gente non capisce. Siccome la gente è comunque fruitore dello spettacolo, ha diritto, credo, a sapere. È come quando viene programmata la prima della Scala e non viene chiamato il miglior tenore, ma un tenore, diciamo così, di medio livello, e il direttore della Scala è logico che debba dire: guardate, non abbiamo potuto prendere il primo tenore perché costava troppo e per questo noi dobbiamo arrangiarci. Certo. Ormai la gente può capire o non può, però non si può raccontare, secondo me, come ha fatto oggi Berlusconi, che il cielo è rosso, perché il cielo non è rosso, il cielo è azzurro, insomma. L'Inter, certo, è più forte del Milan, non si può dire che il Milan sia più forte dell'Inter o allo stesso livello. Sì, io credo che anche la Juve sarà più forte della Juventus, sarà più forte di questo Milan, che la Roma sarà più forte di questo Milan, al momento non, perché questa è la realtà, sono tutte cose che ormai la gente sa, però ufficialmente non vengono dette, e questo fa una certa... fa una certa differenza. Tant'è vero che insomma la difficoltà del Milan nel fare mercato sta in questo barcamenarsi, ma serve Luis Fabiano o serve Huntelaar o serve Adebayor o serve Dzeko, oppure non serve nessuno di tutti questi? Sarebbe meglio mettere quei 14 milioni lì e dire chi li vuole, chi ha un attaccante da darci, perché è evidente, ma come è stato scritto nei giorni scorsi, che se l'obiettivo era ad esempio Huntelaar, che sembra il più papabile anche perché il meno costoso, beh, allora era un attimo prenderlo nei giorni in cui Florentino Perez aveva l'esigenza di sparare in fretta il suo primo colpo di cannone. Gli si diceva: senti, dacci Huntelaar più 60, per dire, magari arrivava Huntelaar. Ma non c'è dubbio, ma c'è secondo me veramente una miopia nella strategia, nel costruire la strategia, perché insomma, ripeto, faccio un esempio, io è un giocatore che mi piace tantissimo ed è Floccari, che quest'anno si è trasferito dall'Atalanta al Genoa. Secondo me Floccari è un giocatore che potrebbe anche rientrare nella lista di Lippi per il Mondiale. Credo che sia un giocatore adattissimo al tipo di gioco del Milan. Allora, se bisogna modificare, se bisogna cambiare, eccetera, ma perché non lo si fa per tempo e si va a cercare questo tipo di giocatore? E bisogna invece andare a puntare sulla riserva di Inzaghi, perché tutelare la riserva di Inzaghi, parliamoci chiaro. C'è un ascoltatore che chiede di spiegare perché definisce Luis Fabiano uno stopper. A me sembra un concetto abbastanza chiaro, ma rendiamolo pubblico. Stopper, nel senso che c'è cioè uno che ha dei movimenti da difensore, non ha mica dei movimenti da attaccante. Allora non bisogna mica farsi ingannare dai 5 gol fatti in Confederation Cup, perché basta guardare su Wikipedia, non so come si dica, e si scopre che Luis Fabiano ha fatto benissimo nella Coppa America del 2004, capocannoniere, vittoria in Coppa America, poi ha fatto malissimo dopo, ha fatto benissimo nella Confederations Cup del 2009. Questo che cosa significa? Che lui fa benissimo quando è in ritiro con la squadra. Se non è in ritiro, questo fa al massimo 7-8 gol a campionato. Ciò significa che non è non stiamo parlando di Altafini, ma neanche di Pierino Prati, sì, e neanche di Aldo Serena. È il classico esempio di stopper offensivo. Ah sì, Lucarelli 2 la vendette. Un'altra cosa, Andrea, ma in un gruppo particolare come quello del Milan, dove comunque ci sono giocatori di lunghissima militanza e che insomma hanno un rapporto anche stretto con la società, questo momento come viene vissuto? Mi riferisco naturalmente al neocapitano Ambrosini, a Inzaghi, a Gattuso, a Pirlo, a gente che è lì comunque da una vita e mezza. Questo momento così difficile, possibile? Appunto. Viene vissuto bene, viene vissuto stringendo i denti. Loro sono convinti di riuscire a fare qualcosa di buono in Europa. Però sono ovviamente consapevoli del fatto che in Italia l'Inter sia ancora superiore. Un'ultima cosa, Andrea, per una curiosa coincidenza, come era già previsto ovviamente in maniera ampia, Ancelotti al Chelsea oggi, suo primo giorno di scuola. Poi vi faccio sentire anche la prima divertente conferenza stampa di Carletto Ancelotti in inglese. Dimmi? No. Pronto? Eccomi, no, sì. Sentivo i rumori sottofondo, no? Diceva Ancelotti al Chelsea, una cosa curiosa, continua a chiedere una prima punta anche lì, pensa se sarebbe il colmo se non glielo prendesse nemmeno Abramovic, eh? È assolutamente possibile, perché ci può stare, diciamo. Io credo che alla fine Abramovic lo prenda a prima punta, insomma, sinceramente non penso che abbia dei problemi economici, però il Chelsea rispetto al Real Madrid ha una signora squadra e credo che debba fare investimenti inferiori rispetto al Real Madrid, tanto per fare un paragone. Credo che la squadra ci sia. Una prima punta servirà, perché Drogba credo vada via un paio di mesi per la Coppa d'Africa, quindi sì. Certamente quella è un'assenza che pesa. Potrebbe essere, per ironia della sorte, quello stesso Dzeko che piace tanto al Milan. Ma così si dice, però se il Wolfsburg non lo vuole dare... Può non darlo. Esatto, potrebbe non darlo. Io sinceramente credo che Dzeko abbia un accordo scritto con il Milan, lo dico chiaro e tondo, e credo che nessun'altra squadra possa prendere Dzeko dal Wolfsburg. Ovviamente sarò smentito da qui a poche ore quando verrà annunciato l'acquisto di Dzeko da qualcun altro, però sono quasi sicuro che il Milan si sia cautelato con Dzeko. Andrea, grazie, buon lavoro, mi sa che oggi ne hai da fare, eh? Penso di sì, penso. Ti leggeremo domani sulla Gazzetta. Grazie davvero ad Andrea Schianchi, inviato della Gazzetta dello Sport a Milanello, dove, ripeto, oggi giornata non semplice. Il programma prevede alle 15 la presentazione di chi? Beh, di Leonardo e di Thiago Silva, che sarà, è arrivato, come sapete, a gennaio, si è solo allenato con il Milan per la questione degli extracomunitari. Quest'anno sarà abile arruolato, gran bel difensore, questo sì, un buon acquisto, ma finora l'unico. Ci fermiamo per il traffico, poi cominciamo a parlare con gli ascoltatori. 800240024 è il numero verde, 349-238-6666 il numero per i messaggi SMS. C'è chi scrive: la contestazione di oggi va al di là della stagione che inizia o di Kakà? I problemi con Galliani risalgono alle finali di Istanbul e Atene, biglietti e via discorrendo. Sì, son cose che sappiamo, questo marciume che c'è dietro nel pregresso, nel passato del Milan, e che da cui è uscita anche quell'indecorosa contestazione a Maldini nel giorno del suo addio a San Siro. Però oggi la contestazione era ampiamente annunciata e credo sia contingente, cioè relativa al modo di operare di quest'anno della società rossonera. Giorgio Reggio Emilia, Leonardo da Roma sono i primi due ascoltatori di oggi, moltissimi anche i messaggi. Ad esempio, il Milan paga il fatto di non aver investito negli anni nel settore giovanile, e questo è vero, ma quest'anno il Milan sembra avere intenzione di fare le cose sul serio. Quanto al settore giovanile, sembra avere intenzione di tornare a guardare con attenzione al settore giovanile. È chiaro che se il programma, il progetto comincia quest'anno, i frutti arrivano tra qualche stagione, nella migliore delle ipotesi. Giorgio da Reggio Emilia, buongiorno. Sì, buongiorno Sergente, sono un tifoso del Milan, deluso dall'atteggiamento della società e la mancanza di chiarezza nei confronti di noi tifosi. Se infatti ci avessero detto 6 mesi fa: ragazzi, l'anno prossimo dovete portare pazienza, perché punteremo sui giovani, punteremo a ringiovanire la squadra, credo che tanti tifosi non potevano dire niente. Ma sono d'accordissimo, e questa è ovviamente questa è la voce di quella parte di tifoseria che Berlusconi definisce i milanisti veri, dicendo: i milanisti veri hanno buon senso e sanno che si devono fidare, perché abbiamo regalato stagioni favolose. Non posso pensare che qualche milanista diventi improvvisamente interista, dice Berlusconi in questa intervista. E appunto, i milanisti veri, come credo il nostro ascoltatore, avrebbero accettato di buon grado un discorso molto, molto chiaro, improntato a questa linea. Benissimo, ci fidiamo, ripartiamo dai giovani, rifondiamo tutto, tra qualche anno torneremo a vincere. Ma credo che non faccio una grinza questo, Giorgio. Assolutamente, anche perché abbiamo vinto tanto negli scorsi anni, e ci può stare un progetto, tra virgolette, a lungo termine, a medio-lungo termine, puntando sui giovani, però vendendo giocatori come Seedorf, che magari grandissimo giocatore, tantissimi applausi, però hanno fatto un po' il loro tempo nella nostra squadra. Assolutamente. Cioè, non puoi partire ringiovanendo la squadra e vendendo il giocatore migliore che ci ha fatto fare la differenza negli ultimi 4-5 anni. Io non accetto assolutamente come tifoso le prese in giro del nostro presidente, l'ultima quella di stamattina sulla Gazzetta dello Sport, insomma. È veramente una presa in giro. Ma è chiaro che è stato venduto Kakà perché era l'unico che poteva consentire di sistemare il bilancio e di chiudere questo tipo di operazione. È chiaro che vendendo Seedorf, insomma, rimane un buco profondo da colmare. Quindi la cessione di Kakà è funzionale a questo, ma si sapeva fin dall'inizio. Quindi l'unica strada per coprire quel buco era la cessione del giocatore più forte, cioè Kakà. Leonardo da Roma, buongiorno. Io stavo ascoltando prima la discussione. Io sì. mi trovo invece molto d'accordo con Berlusconi, non in quello che ha detto, ma praticamente a non comprare nulla, perché in questa situazione, sia in Italia che in Europa, il Milan in Italia non può competere con l'Inter, e penso anche che abbia grosse difficoltà, ma anche comprando qualcuno, uno o due elementi validi, l'Inter sta a un livello superiore, come il Lione in Francia, come la Juventus di tanti anni fa e così via. In Europa non ne parliamo, perché anche l'Inter in Europa troverà delle difficoltà. Perciò perché investire? Il gioco del calcio è per vincere. Cioè, non esiste il gioco del calcio, è il classico gioco per vincere. Sì. E se uno compra, spende molto per arrivare massimo secondi in Italia e non partecipa in Europa, è una follia. No, ma si può anche spendere per ricostruire. Si può anche ricostruire. Quando ho sentito che Gattuso, Ambrosini, Inzaghi vogliono fare bene in Europa, chi vuole ricostruire? C'è mezza squadra praticamente da cancellare. Investire due soldi qui. Il Milan non può fare la filosofia del Genova o della Fiorentina. Ma perché no? Perché no? Perché c'è una tradizione di tifosi, di storia. Benissimo, però se non hai soldi per tornare a competere a quel livello, se non hai soldi per competere a livello di mercato con i grandi club europei, allora scegli un'altra strada. E come dicevamo, io credo, ma sono certo, perché li sentiamo tutti i giorni, i tifosi del Milan avrebbero di buon grado accettato un progetto a medio termine, per l'appunto, un progetto di ricostruzione, di rifondazione, di facce nuove, di alternative valide a un ciclo che si è evidentemente chiuso, no? Quindi questo discorso, insomma, non si può dire beh, non compro nessuno, perché tanto anche se compro un giocatore o due non vinco nulla lo stesso. Questo può essere vero, però innanzitutto non si deve dire siamo forti più dell'Inter, siamo competitivi ad ogni livello, eccetera. Si deve dire ripartiamo da un progetto diverso, da un ciclo differente, da facce nuove, da giocatori, da un allenatore differente, eccetera, eccetera, eccetera. E appunto questo è un discorso che gli stessi tifosi del Milan, quelli veri, quelli cui si riferisce Berlusconi, la parte buona, avrebbe accettato di buon grado. Federico Monza, buongiorno. Buongiorno signor Genta, io volevo fare un inciso molto sintetico. Siccome c'è questa austerity nel Milan e credo che il colpo di mercato più importante sia quello di portare a Milano una punta che può essere di peso, può sembrare fantacalcio, ma una persona come Trezeguet potrebbe essere utile al Milan, visto che la Juventus comunque deve monetizzare da Paulsen e Trezeguet per riuscire a prendere qualcuno sul mercato. L'ascolto per radio. Federico, io credo che Trezeguet, se sta bene, rimanga comunque un attaccante da tanti gol, però santi Dio, non si può dire ringiovaniamo, rifacciamo la squadra e si riparte da Trezeguet, che è un giocatore ultra trentenne. Potrebbe essere utile, siamo sempre lì, si tratta di capire che strada si intende battere. È chiaro che se si fa un discorso serio, in prospettiva e con idee chiare sul futuro, il giocatore giusto non può essere Trezeguet, può essere piuttosto Unter, che comunque è uno che chiaramente non ha ancora quelle caratteristiche, ma ha 25-26 anni, Dzeko, Adebayor, questi sono giocatori che ti consentono di parlare di progetto. Con Trezeguet non si parla di progetto, si ritorna all'acquisto del giocatore molto costoso dal punto di vista dell'ingaggio e di pronto impiego, insomma, di rapida fruizione, un paio d'anni e via. Si ritorna a quella logica lì, che non è esattamente, secondo me, in questo momento la migliore possibile. Ernesto, provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno a lei. Dica. Io sono uno di quei milanisti che sono non arrabbiato, però sono in contrasto con gli altri milanisti, quelli che dicono che il nostro presidente non vuole più investire, non vuole più spendere, che deve lasciare la squadra. Allora, io sono milanista da sempre, ho 49 anni, ero milanista quando eravamo in Serie B, sì. E figuriamoci se non sono milanista adesso. Certo. Se il nostro presidente, come ha detto, e non lo dice solo lui, lo dico anche i numeri, perché poco tempo fa è stata stilata la classifica degli uomini che hanno guadagnato di più, giusto, negli anni scorsi, e mi sembra che il nostro presidente è passato da un utile di 150 milioni di 2 anni fa a uno di 15 dell'anno scorso. Sì. Di conseguenza posso capire che non ha voglia di buttare dentro 100 milioni nel Milan, giusto? Sì, sono convinto anch'io, lo capisco anche. Sono convinto anch'io, secondo me fa pure bene. Eccola. Allora io dico, lo ringrazio per quello che ha fatto in tutti questi anni, perché io insomma ho sempre visto vincere il Milan da quando sono milanista, ecco, negli ultimi 25 anni. Adesso lui può, come è stato il primo magari a impostare delle squadre con dei grandissimi giocatori, che poi vabbè, anche lì c'è da vedere se erano giocatori forti prima o se lo sono diventati dopo nel Milan, sì, giusto? Sì. Adesso può essere magari il primo a dire adesso basta, abbiamo toccato il limite, da oggi in poi si fa un'altra politica. E allora che lo dica, ma Ernesto, che lo dica, va benissimo, eh? Secondo me lui è schiacciato fra il suo ruolo di Presidente del Consiglio, in più in questi periodi ci sono state queste due campagne elettorali che sì. Ci sono state perché è caduto un governo, giusto? Sì. E forse lui avrebbe fatto altre cose. Sì. E però secondo me è schiacciato anche dal fatto che sono subentrati anche i suoi figli e mi sembra che i suoi figli hanno dimostrato di non essere poi così attaccati Ma perfetto, alla squadra. Perfetto, ma lei ha ragione, ma che lo dica. Cioè che lo dica e non dica che insomma il Milan, nessuno è più forte di te, nemmeno l'Inter, siamo e resteremo grandi. Va benissimo se dice i soldi da spendere sono questi, 14 milioni per prendere una punta e basta, e vediamo che cosa succede, insomma ripartiamo da altre basi, che lo dica. Siamo qui a sottolineare queste cose, non c'è nessun problema. Ripeto, se dicessero la politica adesso è quella di un bilancio sano, di una squadra che in grado di autofinanziarsi, di autosostenersi, se ci parlano di calcio sostenibile, ma va tutto benissimo. L'importante è essere chiari per l'appunto con i clienti del club. Maurizio, Modena, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione, grazie per farmi intervenire. Grazie a lei. Niente, avevo un'idea, più che altro quello che mi preoccupa è che i tifosi in generale si accanniscono di volere queste società che devono spendere per forza, perché in tutti questi anni ci hanno abituato un po' così a questo benessere calcistico, ma adesso i tempi sono cambiati, giustamente queste società ragionano come aziende e adesso è arrivato il momento di dover tirare un po' i remi in barca, cercare di far capire la loro politica aziendale, che purtroppo sono le più grandi società, guardiamo nel nostro campionato, a parte l'Inter che ha per fortuna loro un presidente che è economicamente molto forte, ma secondo me il problema è quello lì di fondo, ci sono società piccole che fanno salti mortali per investire sul campionato e adesso che mancano anche alle più grandi società questa liquidità, bisogna mettersi nell'ottica che è giusto che si comportino così. Se la squadra può arrivare solo a un certo livello è giusto che si arrivi a questi livelli qua e dare la possibilità di rinnovarsi, insomma. Dà la possibilità di rinnovarsi e tracciare delle strategie diverse. No, ma non capisco perché il Milan non potrebbe essere fare un percorso come quello del Genoa, o meglio fare un percorso come quello della Roma, che peraltro da anni ha un bilancio sano, perché è chiaro che ci sono quell'enorme debito nei confronti di Unicredit, ma è un debito del gruppo Italpetrolio, non è un debito della Roma, che negli ultimi anni ha praticato questa politica del virgolette calcio sostenibile, anche se è un club che costa un pozzo di soldi quanto a ingaggi, perché è così, però insomma la Roma negli ultimi anni ha praticato questo tipo di strategia che mi sembra abbia funzionato discretamente bene. Così per curiosità, mentre ascoltavo la borsa sono andato a rivedermi le cifre di Luis Fabiano di cui si parlava prima con Andrea Schianchi, cifre che dicono, dunque lasciamo perdere la parte brasiliana della sua carriera, c'è stata una parentesi al Rennes dopo il Ponte Preta, club nel quale ha iniziato, 11 partite, nessun gol. Quindi è tornato in Brasile al San Paolo, 84 partite, 62 gol. Quindi il ritorno in Europa, 2004-2005, nel Porto gioca 22 partite e segna 3 reti. Quindi si può parlare di un fallimento questa esperienza, questa parentesi portoghese. Poi va al Siviglia, prima stagione 23 partite 5 gol, seconda stagione 26 partite 10 gol. La sua annata migliore è il 2007-2008, 30 partite 24 gol, vice capocannoniere della Liga alle spalle di Guiza. Quindi nell'ultima stagione 30 partite 7 reti. Non mi sembrano cifre da principe degli attaccanti, però certamente un buon attaccante. Mister Carlo Ancelotti, prima di parlare con Marco e con Vito voglio sentirlo, prima conferenza stampa questa mattina in inglese e ve la lascio rigorosamente in un inglese non difficile da capire, di Carletto Ancelotti, allenatore del Chelsea. Mi metto qua. Good morning, eh? Ciao. I think that John Terry is a symbol of this team. I don't know if he will be the captain next season. Naturally, I'm joke. I like to joke in the press conference. he will be a captain in next time in the future. He is a symbol. He said that he want to stay forever in Chelsea, and we want to keep him forever. Well, I think that in Chelsea was a great player, was Di Matteo before, was Zola, was Vialli, and they, I can speak with him. I spoke with Luca Vialli 15 days ago, and he spoke very well for the club, and they stayed very well in Chelsea, and I hope to do the same. Così Carlo Ancelotti, beh, mi sembra che il voice over sia pressoché inutile, no? Si permette anche uno scherzo, non so se John Terry sarà il capitano l'anno prossimo, e poi probabilmente li vede atterriti e dice no, sto provando a scherzare, sicuramente resterà e sarà il capitano anche per il futuro. Bellissima comunque. Marco Pesaro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. È la prima volta che parlo, quindi sono un po'... Ma benvenuto, ben arrivato. Grazie. Niente, a parte sono molto contento di sentire Ancelotti anche con questo inglese un po' divertente. Sì. Comunque io sono un tifoso di quelli delusi del Milan, ma delusi più che altro dal comportamento della società. Adesso si può anche vendere Kakà, anche lì si può vendere Kakà con quei soldi. Però ricordiamoci che l'anno scorso abbiamo acquistato un certo Ronaldinho, l'ideale del tramonto, per certo. 25 milioni di euro. Per 25 milioni di euro più l'ingaggio del giocatore, che io penso si aggiri sui 6-7 milioni all'anno. No, mi sembra ne chiavi 4 e mezzo, ma comunque sono tanti soldi. Comunque, se facciamo due conti, 25 più altri 15, certo. Sui 40 milioni di euro, che voglio dire è una cifra che poteva essere risparmiata visto l'incidenza che ha avuto il giocatore sulla squadra. Certo. Voglio dire, un conto è fare una campagna mediatica con Ronaldinho, e un conto è fare un programma serio di giocatori giovani, come potrebbero essere questo Dzeko, oppure un certo, adesso si parlava di Hernanes, ma anche italiani. Io vedo Cigarini, vedo i giovani, che fioccheri, come avete detto voi. Io sono proprio, adesso proprio, guardi, deluso proprio al 100% di questa politica del Milan. Quindi... No, sono d'accordo, ma anche perché gran parte di quel buco scavato di 68 milioni di euro è stato determinato da incauti acquisti nelle stagioni precedenti, e quindi da lì, insomma, non si prendeva Ronaldinho, si ricostruiva, si rifondava la squadra su, mettiamo Kakà e Pato, poi il resto lo vediamo insieme. Ed ecco che poteva nascere un progetto intorno a due giocatori giovani e fortissimi che poteva anche piacere alla gente. Lei ha ragione su tutti i fronti. Vito Milano, buongiorno. Ah, buongiorno. Senta, io volevo dire due cose. Una, che ho analizzato il bilancio del Milan in maniera che quello che su internet il bilancio ci ho certificato. E a mio vedere, a parte che il Milan è la quarta squadra in Europa come fatturato, sì, e la seconda come spese, sì, la seconda come spese. E la mia valutazione, ho visto un 60-70 milioni, si può vedere su internet, di spese sul fatturato, cioè 270 milioni di euro di fatturato con 340 circa di spese. C'è un 60-70 milioni di spese che sono ridicole. Le faccio un esempio: 6 milioni di spese per i consulenti del mercato spagnolo. Apro parentesi, vuol dire Bronzetti e qualcuno, sì. Ma è possibile che una squadra deve andare a spendere 6 milioni di consulenti per il mercato spagnolo, che vuol dire quelli che hanno trattato per portare Ronaldinho? Sì, sì. Un'altra voce, 22 milioni per Milan Lab, 22 milioni. Allora, io voglio dire, se andare a vendere, cioè Kakà, è stato come andare a vendere i beni di famiglia per poi di pagare gli stipendi a tutti gli altri. Invece si doveva fare l'inverso. Sono due anni che hanno sbagliato la campagna qui, due anni, non uno. portandosi a casa i vari Senderos, i vari Shevchenko, i vari Emerson, i vari, tutta gente da 5-6 milioni di certo, euro di, all'anno. Certo. Questo che i tifosi, quelli maturi, come dicono loro, sono incazzati, ma proprio i tifosi maturi che sono andati a sbirciare anche il bilancio. No, dire, sono d'accordo, Vito. La seconda squadra in Europa, come, che vuol dire nel mondo, come spesa, non si può permettere almeno un campione come un fuoriclasse, almeno uno. Caro, il Real Madrid, che è la prima, guardi, che spende 400 milioni contro 340, adesso se ne può permettere 6 o 7. È in dubbio, sì, beh, ma Real Madrid mi perdoni, Real Madrid è un'altra storia, un altro discorso, che così come il Manchester United, eccetera, eccetera, perché i discorsi sono differenti quanto ai bilanci. Quanto al resto, insomma, lei ha ragione di quello che stanno, che i tifosi maturi, come li chiama Berlusconi, di milanisti veri, eccetera, che sono poi la maggioranza, non sono quelli che tirano i fumogeni lì a raduno, sono tutti d'accordo su quanto stiamo dicendo tutti insieme. Ringrazio tutti i vari ascoltatori, anche quelli che magari poi interverranno, però adesso voglio parlare di altri spunti domenicali, a cominciare dal moto mondiale. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, buongiorno a tutti. Gran bella gara ieri a Laguna Seca, è un grandissimo Pedrosa, però insieme a lui ci metto anche Valentino e Jorge Lorenzo, che hanno fatto una gara magnifica. Beh, anche il povero Stoner, tutto sommato, perché che è contato una... come era. Diciamo, sembra un reduce dalla grande guerra, Stoner. Sì. Beh, diciamo che è il vero quartetto che si aspettava dall'inizio del campionato, con Pedrosa che un po' per problemi fisici, un po' per carenze della Honda, solo adesso è riuscito a mettersi decisamente in mostra. Certo, forse Valentino l'avesse raggiunto, probabilmente l'avrebbe scavalcato, quindi evidentemente Pedrosa si è fidato un po' troppo. Valentino ha delle doti di recupero che appunto l'avversario davanti non fa tempo a passare davanti al box, vedere il cartellone che già se lo trova alle spalle quando sembrava che fosse a 4 secondi. Quindi diciamo che è stata una corsa senza dubbio interessante, anche se ti dirò che ho letto molto critici dicendo una corsa pallosa, tutto sommato, perché non ci sono stati grandi sorpassi. Beh, questo non vuol dire, c'è stata una gara in cui in 500 metri e c'erano quattro grandi protagonisti, e quindi direi che la possibilità del duello era costante, quindi l'attenzione sì, sì, c'era sempre. No, ma è proprio questo che intendo, cioè non è necessario avere 15.000 sorpassi, specialmente in una gara di moto mondiale, per avere una gara interessante. Questo era su un circuito molto particolare, molto difficile, c'era Pedrosa che non ti aspetti e che parte come una spia, Rossi che non molla mai, arriva a prenderlo e poi fa due conti e dice: ma perché rischiare su questa pista di finire per terra quando posso incamerare i punti del secondo posto? C'è Lorenzo che è tutto infiltrato, tutto rotto, tutto bendato, riesce comunque a far paura a Valentino Rossi, e c'è Stoner che appunto sembra un reduce dalla guerra, però dà tutto e arriva in fondo stremato. A me è sembrata una gara bellissima. No, ma infatti, e poi non dimentichiamoci che nonostante tutto solo 9 punti separano Lorenzo da Rossi, Stoner ne ha, se non sbaglio, 16, e Pedrosa ne ha recuperati, ma è a quota 92, molto lontano, sì. Quindi nonostante tutto la situazione, se la salute li rimette a posto tutti, è sicuramente molto, molto interessante, e Valentino chiaramente rimane favorito. Ho letto se la salute rimette a posto tutti, perché qui c'è un problema secondo me molto serio, di cui hanno accennato ma non con la convinzione secondo me necessaria, che è quella di queste gomme, che una volta di più anche in questa categoria, come già in Formula 1, tutto sommato determinano il risultato. Nel caso specifico, il motivo delle cadute, che era appunto la gomma che, come uno molla un po' il gas, si raffredda e non tiene più, è una follia. Cioè non si possono fare dei regolamenti dove si accettano cose del genere. Questo è particolarmente assurdo dove c'è una monogomma, è monomarca, quindi è un fornitore esclusivo che però ha già fatto tutte le gomme e decide di metterne un certo tipo, e sbagliando spesso, quindi come adesso succede anche in Formula 1. quindi bisognerà che a un certo punto i piloti si facciano valere, perché quel tipo di cadute lì è stupide e non deve succedere, perché la prima di Lorenzo lui ha detto anche esplicitamente, ho rallentato un po' perché avevo una coda, ed era vero, si vedeva, di piloti dietro, sì. Volevo farmi il giro senza avere quelli che mi seguivano, è bastato quell'attimo lì per poi andare per terra, insomma, certo. Mi sembra una cosa abbastanza complicata, sì, comunque sì. Vediamo adesso, per il Sachsenring dovrebbero avere le gomme adatte, e vedremo come andrà. Certo che, come dico, si chiude una volta di più con Valentino che è un gradino sopra gli altri. Grazie Mario, alla prossima. Ciao, arrivederci. Ci sentiamo naturalmente in prospettiva weekend. Sto leggendo i tanti sms, 349-238-6666. Non ho strumenti per valutare la veridicità di quanto scrive Sergio, consulente di borsa di Milano, che scrive questo: il Milan ha brevettato Milan Lab, i suoi introiti per la vendita del sistema ha frottato centinaia di milioni di euro. Solo che non sono in bilancio, in quanto fanno parte di una società parallela al Milan, proprietaria del gruppo Berlusconi con sede alle Bahamas. Questo lo scrive un ascoltatore e ve lo lascio lì come mi viene scritto. Intanto voglio tornare in Inghilterra dopo aver sentito Carlo Ancelotti. Sentiamo Vincenzo Martucci, che ha visto e scritto ampiamente sulla Gazzetta dello Sport della vittoria di Federer. Ciao Vincenzo, grazie. Buongiorno a voi. Senti, l'impressione che mi è rimasta in questa domenica tennisticamente interminabile e dai numeri da record è di un Roddick bravissimo al limite, di un Federer che dopo un torneo da dominatore ha alla fine, perché forse è un essere umano, sentito la pressione. Perfetto nei punti decisivi, ma non il miglior Federer di sempre, quello di ieri. Indubbiamente chi aveva veramente da perdere la partita era lui, perché in realtà senza Rafa, che aveva battuto l'anno scorso, con questa possibilità di riprendersi il titolo e di fare la coppiata Parigi-Wimbledon, in realtà perdere con Roddick per lui sarebbe stato uno smacco, anche perché in questo modo si è ripreso il numero uno del mondo, altrimenti non l'avrebbe ripreso subito ma più avanti per gli strani giochi di classifica. Quindi sicuramente la pressione l'ha accusata, del resto lui gioca sempre un po' più teso quando poi vede davanti a sé i grandi del passato, c'erano Lever, Borg, Sampras, e lui un pochino ha accusato la tensione. Ma l'ha ammesso, quando ho visto Pete Sampras entrare a match iniziato, insomma, mi sono venuti sudori freddi, l'ha detto Federer, no? Sì, infatti lui poi soprattutto con Sampras, sai, che è il più vicino a lui, quello che ha visto giocare, quello che ha battuto anche a Wimbledon, sicuramente ha un rapporto particolare, i due si sentono, hanno giocato un'esibizione l'anno scorso, hanno molta stima. Sampras ha sempre detto che per lui Federer è più forte, e tagliando così la testa al toro di tutte queste domande che uno si fa, chi è il più grande di sempre. Sì. Io ho avuto la fortuna di vedere Lever e ho visto giocare tanto Sampras, e a mio giudizio non c'è assolutamente paragone, l'unico giocatore veramente capace di giocare tutti i colpi e di giocarli sempre in modo diverso e di trasformare qualsiasi difesa in offesa, secondo me è Roger Federer. Sì, quanto vale secondo te questa finale dal punto di vista dei contenuti tecnici? Perché è chiaro, i numeri sono da record, ma tu ne hai viste mille di finali a Wimbledon, questa è stata davvero così tecnicamente meravigliosa o è stata solo una partita molto strana? Ma è stata meravigliosa secondo me perché si è visto molto servizio volé, si è visto un giocatore come Roddick che una volta giocava solo in un modo, servizio e dritto, e stava a fondo campo, oppure si buttava come un pazzo a rete, che invece riesce a gestire il match nel modo tatticamente più giusto. Ha sbagliato l'esecuzione di un paio di colpi, ma alla fine la sua partita è stata tatticamente assolutamente perfetta, e questo ti fa pensare, e se Federer ce l'ha fatta, lui dice che ce l'ha fatta col grande lavoro, sicuramente sì, perché le gambe poi ti devono portare dovunque, ma è anche vero che se lui non faceva quelle due o tre invenzioni proprio da genio, alla fine l'altro, con la sua rabbia e la sua voglia finalmente di vincere una finale di Wimbledon, ce l'avrebbe fatta. Sì, Andy, che è comunque cambiato sulla scorta di un nuovo allenatore che l'ha reimpostato e lo ha reso un giocatore completamente affidabile, secondo me. È chiaro che al povero Andy Roddick servirà a questo punto uno psicologo di quelli bravi per dimenticare quanto è successo ieri, in particolare nel tie break del secondo set, che gli avrebbe cambiato la vita, io credo. Perdere una finale così è un colpo non da poco. Io stamattina ho avuto la fortuna di andare alla conferenza un po' ristretta di Roger Federer a Wimbledon. e lui ha detto si impara molto più dalle sconfitte che dalle vittorie, e secondo me, secondo il suo parere, Roddick verrà fuori più forte da questa sconfitta, perché in realtà le altre volte lui ha perso nettamente con me, questa volta ha perso di pochissimo contro uno che tutti definiscono il più grande campione di sempre. Questo non può che dargli fiducia. Roddick già ha recuperato almeno due volte la sua carriera, non dimentichiamo la batosta che aveva preso le altre due volte, non dimentichiamo che questo giocatore ha perso anche una finale degli US Open sempre con Federer, cioè se non ci fosse stato Federer adesso parleremmo di Roddick, non dico a livello di Sampras, ma forse a livello di un Agassi, perché più o meno, se facciamo i conti, i suoi slam sarebbero quelli. Sì. Sui prati delle donne invece Williams Rule, come al solito, Serena tira troppo forte per tutte, compresa sua sorella. Quando sta così tira troppo forte per tutte. Soprattutto, come diceva la Dementieva, che ci ha perso con un match point a favore in semifinale, questa Serena Williams era in grado di correre, quella del Roland Garros no. Quindi quando lei riesce a spostarsi e quindi a portare la sua potenza veramente, a scaricare la sua potenza, veramente non ce l'è per nessuno, neanche per sua sorella, che però un pochino claudicante era, ma io sono convinta che l'unica soluzione dove Serena e Venus possono giocarsela veramente al meglio della condizione è l'erba, seconda il cemento, ma anche lì, come abbiamo visto l'anno scorso in una straordinaria partita fra le due, e poi quando è il momento importante Serena non solo ha potenza, ma diciamo che sa sfruttare meglio le occasioni importanti, un po' come Nadal, ecco, un personaggio che manca a tutto l'ambiente. È una lottatrice straordinaria. A proposito di Nadal, per chiudere, Vincenzo, sono curioso a questo punto di vedere il prossimo incrocio in finale tra Federer, che in due mesi si è tolto un paio di scimmie dalla spalla, la prima era quella di Parigi, la seconda era questa del record degli slam e del ritorno alla vittoria a Wimbledon dopo il segno che Nadal gli ha lasciato addosso l'anno scorso. Adesso sono proprio curioso di vedere il prossimo incrocio, immagino a New York a settembre. Sì, questo se lo augura soprattutto Nadal sotto un certo aspetto, e soprattutto Federer dall'altro, cioè Federer è sicuramente favorito sulle superfici veloci, ancora di più a New York, che ha vinto negli ultimi 5 anni consecutivi. Nadal sul duro patisce ancora di più i problemi che ha alle ginocchia e fa molta più fatica, perché è un gioco molto dispendioso e non ha mai vinto gli US Open, l'unico torneo che ancora gli manca degli slam. Quindi Federer spera di rincontrare Nadal per poterlo battere sul suo campo preferito. Nadal spera di poter ribattere Federer per togliersi appunto un'altra, anche lui, la sua scimmia dalla spalla. In realtà lui era mezzo infortunato a Parigi e infortunato totalmente a Wimbledon, e però da tutto questo io credo che Wimbledon e che gli US Open saranno un pochino troppo presto per Rafa. Rafa ancora non ha ripreso in mano la racchetta, sì è vero che ci sono tanti tornei prima degli US Open, ma insomma io credo che ci vorrà un po' di tempo, forse rivedremo Rafa a fine anno. A fine anno, quindi appuntamento australiano. Il vero a Rafa, cioè no, appuntamento anche magari al Masters, sono nei tornei di fine stagione indoor, ma secondo me per il cemento, con i problemi che ha lui, non lo so neanche se quanto gli convenga, diciamo, forzare troppo questo rientro e non aspettare un altro pochino per riprendersi completamente. E quindi Roger lo troveremo in cima alla classifica, dove è ritornato ieri per avere un po' di tempo ancora. Dove, secondo te, visto quello che ha vinto, visto come sta fisicamente, vista l'età, visto tutto questo, quanto può reggere ancora realisticamente Federer a questi livelli? Lui ha detto sono l'anno prossimo torno, voglio vincere ancora moltissimo. Sarà possibile con il tennis di oggi? Ma è sicuramente possibile, lo ha dimostrato in questo, come dicevi tu, in questa trasformazione totale che c'è stata nei risultati, dalla finale dell'Australian Open, che ha finito piangendo per la sconfitta, a queste due straordinarie vittorie che ha ottenuto, Parigi e Wimbledon, dove nessuno avrebbe pensato che avrebbe rialzato nel caso di Parigi, o rialzato il trofeo nel caso di Wimbledon. Quindi lui fa molta meno fatica degli altri, è un atleta nato, ha un gioco facile, come si è visto ieri, mentre l'altro era lì sempre in affanno, che faceva una fatica incredibile. La stessa fatica peraltro che ha fatto negli anni passati Nadal per stargli dietro, lui gioca con grande semplicità, e quindi alla fine, facendo meno fatica, secondo me dipende solo dalla sua motivazione. Certo. Non so, ecco, quanta motivazione possa ancora avere uno che è appena diventato marito, diventerà padre, ha già vinto 15 slam e più di tutti, ha già, insomma, c'ha tutto quello che gli mancherebbe solo la Coppa Davis, poi ha vinto tutto. Grazie Vincenzo, grazie davvero, un abbraccio. Arrivederci. Grazie a Vincenzo Martucci, inviato della Gazzetta dello Sport a Londra per Wimbledon, per la vittoria di Roger Federer, con cui chiudiamo questo programma. Grazie a Flavio Suardi per il lavoro in redazione, Fabio Cantadone in regia. Ci ritroviamo domani pomeriggio alle 2. Buona giornata a tutti.